Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Certo che non dare elettricità agli anziani e pure il gas è una bella responsabilità, eh? Benvenuti e benvenute a Möbius, sentiamo i titoli e poi incominciamo. A Taranto nasce un residence per anziani che non consuma energia. Perché siamo parenti delle galline? Perché le stelle non ci cadono in testa? Queste sono alcune delle importanti domande che i bambini vorrebbero fare agli scienziati. Le ha raccolte in un libro Federico Taddia. Tanti modi per cambiare la città o per migliorarla. Un viaggio fra idee e proposte da tutto il mondo. Ciao Maurizio. Ciao Federico. Maurizio Meri sei qui con me e vedrete che non è che togliamo elettricità e gas agli anziani. No, poverini, poverini. Lo spieghiamo verso la fine. Prima dobbiamo parlare di qual è la tecnologia nuova che può portare a una soluzione di questo genere. Allora, si tratta di una tecnologia italiana, è stata appena presentata, è una pompa di calore, quindi una roba che assomiglia a un frigorifero, che però si può utilizzare sia per produrre il freddo che per produrre il caldo. In realtà la novità non sta tanto nella macchina in sé, che è un frigorifero ad assorbimento, poi dobbiamo spiegare cos'è per capire il resto. Ma nel superamento di un limite tecnico che affliggeva appunto questo tipo di macchine. Intanto che cos'è questo frigorifero ad assorbimento? È una macchina nella quale per generare il freddo si fa compiere un ciclo termodinamico a un fluido. Uh-huh. Questo fluido viene trasformato in gas e allora lì si produce freddo, oppure viene liquefatto e allora lì si produce caldo. In queste macchine non ci sono compressori e parti in movimento perché la liquefazione, cioè per tornare dal vapore al liquido, si utilizza un sale, un blocco di sale che assorbe l'umidità. È un'esperienza che abbiamo fatto classica. Tutti a casa. Grazie all'innovazione introdotta si riesce a usare acqua anche solo a 60 gradi. Si riesce a produrre con quest'acqua il freddo, si riesce a produrre ancora più calore rispetto a quello che si butta dentro, e siccome l'acqua calda è lo scarto in assoluto più diffuso esistente sia nell'industria sia nel comparto civile, questo macchinario veramente promette. Certo, catturare energia a 60 gradi era impossibile. Era impossibile. Io l'ho intervistato Tarcisio Gelfi, al quale ho chiesto come prima cosa proprio come hanno fatto a superare questo antico limite delle macchine d'assorbimento. E poi finiremo a residence per anziani. Sentiamo. Dunque, il problema storico di queste macchine consisteva nel fatto che al di sotto di determinate temperature, in generale minimo al di sotto dei 90 gradi, il sale correva il rischio di cementare, cioè di indurire e di compromettere fino al deperimento totale la macchina. Noi siamo intervenuti su questa fase critica e abbiamo trovato il modo di consentire alle macchine di lavorare a temperature bassissime, di fatto di non cristallizzare, di non solidificare, senza avere questa sorta di sali. Perfetto, di congelamento dei sali. Proprio cementificazione. Perfetto. Diventavano un blocco di marmo. Ecco, ma arriviamo alle applicazioni che sono l'aspetto più interessante e che immagino siano moltissime, perché di fatto l'acqua calda o comunque il calore a bassa temperatura è lo scarto largamente più diffuso, più disponibile. Beh, diciamo che quello più semplice, più vicino a tutti quanti noi è il sistema di riscaldamento o di climatizzazione di casa nostra o del palazzo dove viviamo o oramai come si più si tende del quartiere nel quale magari è stato impiantato un sistema di teleriscaldamento, certo. Il sistema di teleriscaldamento. Nello stesso palazzo o nella nostra stessa abitazione abbiamo dei fabbisogni energetici che non sono solo termici, sono anche elettrici. Bene, dovunque si produca l'energia elettrica che ha bisogno al nostro edificio o al nostro quartiere, ci sarà anche la dissipazione, cioè si butterà via un'enorme quantità di acqua, pari a circa 2 volte la quantità di energia elettrica che utilizziamo. Quindi se invece di acquistare l'energia elettrica in remoto, come si suol dire, cioè da lontano, la si autoproducesse sul posto, si avrebbe acqua calda gratuita e oltretutto ad emissione zero di CO2. Questo però, diciamo, è il principio della cogenerazione. Esatto. Voi affiancate alla cogenerazione un ulteriore guadagno di acqua calda con questo sistema SEPE? È questo, esatto, il concetto, quindi? L'acqua calda prodotta, sottoprodotta da un cogeneratore, investita nella pompa di calore alimentata per l'appunto d'acqua calda, aumenta l'efficienza di tutto il sistema fino al 122% e oltre per cento. Ecco, addirittura si è parlato di applicazioni di questo sistema delle centrali a gas. Come pensate di utilizzarle in questo contesto? Beh, perché la nostra macchina comunque essenzialmente è una macchina che produce acqua refrigerata, noi utilizzando la dissipazione termica delle turbine a gas produciamo gratuitamente acqua fredda per raffreddare l'aria che si immette nelle camere di combustione. Questo aumenta il rendimento del sistema. Perché è più densa l'aria, è come fare una specie di turbocompressione. È esattamente quello che si fa nelle nostre autovetture quando parliamo di turbo intercooler per aumentare la quantità di ossigeno da miscelare al combustibile, quindi aumentarne l'efficienza, si raffredda l'aria in maniera che per ogni metro cubo immesso nel sistema ci sia una quantità di ossigeno più alta. Ho sentito parlare di un aumento di efficienza del 5%, che è moltissimo in realtà, se pensiamo a come verrebbe ottenuto. Sì, in realtà il rendimento può cambiare in base alle fasce climatiche, certo, cioè alle temperature medie, però mediamente siamo anche sopra il 5%. Anche sopra il 5%. Ecco, mi pare che proprio settimana prossima voi stiate per inaugurare una nuova casa di riposo che utilizza il sistema SEPE, però c'è un dettaglio curioso, che insomma voi avete fatto i collaudi e non c'erano né l'energia elettrica né il gas, eppure funzionava tutto. Beh, come spesso succede nella programmazione dei cantieri, gli allacci alle reti esterne sono arrivate un po' dopo l'ultimazione sia dell'edificio che degli impianti. Poiché però l'impianto è dotato di quote parziali di autogenerazione di energia, quindi ha un piccolo campo fotovoltaico per soddisfare i propri consumi ausiliari, le pompe di circolazione, i pozzi e quant'altro, e un campo solare di 100 pannelli solari termici, l'impianto è stato in grado di autoalimentarsi e di partire anche in assenza del gas. Quindi avevamo una casa di riposo con riscaldamento e anche col condizionamento che andavano, con pochi pannelli fotovoltaici e un po' di pannelli per l'acqua calda, insomma. Esatto. Grazie Tarcisio Gelfi, in bocca al lupo. Grazie a lei, arrivederci. A un mio amico tempo fa gli si sciolse una forma di gorgonzola in auto a giugno. Per i 7 anni successivi il gorgonzola non abbandonò l'auto. Sentiamo cosa ci racconta Barbara Gallavotti. Parliamo di odori e lo facciamo per affrontare uno dei grandi quesiti a cui la scienza non è mai riuscita a dar risposta. Come fanno gli italiani e i francesi a trovar gradevole l'odore di certi terribili formaggi stagionati? E prima di passare al dessert, vi proponiamo la nostra tradizionale selezione di formaggi. Per iniziare, un eccellente clochette cremoso, molto piacevole e delicato. Poi un brebis dalla spiccata personalità, ne converrete. E infine la pièce de résistance, molto speciale, un rarissimo... Povero Rémy, il topino gourmet del film Ratatouille. Per lui il profumo del cacio è così inebriante da non accorgersi di essere finito sul carrello di servizio di un grande ristorante. Ma che dire poi dell'odore dei tartufi e del pestilenziale durian che i malesi trovano irresistibile. I maligni dicono che questo frutto abbia il sapore della più deliziosa torta fatta in casa e l'odore del più mefitico bagno pubblico. Ed è un odore persistente e infatti negli alberghi malesi dei cartelli avvertono spesso del più totale divieto di introdurre in camera quella specie di bomba olfattiva. E allora? Il naso degli italiani e dei francesi è diverso da quello degli inglesi, per non parlare di quello dei malesi? Se lo sono chiesti alcuni ricercatori del Weizmann Institute in Israele. Per prima cosa si sono procurati un annusatore imparziale, cioè un naso elettronico, un e-nose, per dirla in termini da tecnofili. Come si fa ormai per tutti i sistemi che si basano sul principio dell'intelligenza artificiale, lo hanno addestrato a percepire gli odori, indicandogli quali erano da considerarsi gradevoli e quali sgradevoli, sulla base delle indicazioni di alcuni volontari. Così addestrato, il nasino elettronico si è comportato come un vero e proprio nativo del vicino Oriente, né più né meno di come avrebbe fatto un umano. L'addestramento dunque era in effetti servito a fornire alla macchina dei parametri generali, la mettevano così in grado di classificare correttamente anche nuovi odori. A questo punto restava da capire se i gusti del sistema coincidevano solo con quelli degli abitanti del vicino Oriente o con una popolazione più generale. Quindi i ricercatori hanno messo a confronto confronto gli indici di gradimento della macchina con quella di recenti immigrati dell'Etiopia, cioè di un'altra parte del mondo. Ebbene, anche in questo caso i giudizi erano coincidenti, nonostante il naso elettronico continuasse ad essere, per così dire, tarato sul vicino Oriente. Le conclusioni? Beh, a quanto pare i gusti in fatto di odori potrebbero essere universali. E le devianze, come l'amore per l'odore di cacio muffito o del frutto tropicale durian, non sono da addebitarsi a un apprezzamento dell'odore di per sé, ma alla sua associazione con un buon sapore. E qui ci si collega a un altro studio del Weizmann che riguarda appunto le memorie olfattive. In questo caso i ricercatori hanno mostrato ad alcuni volontari delle immagini associandole ad odori gradevoli e sgradevoli. Quindi hanno ripetuto l'esperimento associando a ciascuna immagine un odore diverso dalla volta precedente. Dopo una settimana ai volontari è stato chiesto di ricordare gli odori associati alle immagini mentre l'attività del loro cervello veniva monitorata tramite risonanza magnetica. Alla fine, solo nel momento in cui i volontari ricordavano il primo odore, i ricercatori hanno osservato un'attivazione delle aree del cervello dette ippocampo e amigdala, coinvolte profondamente nella memoria e nell'emotività. Quando i volontari ricordavano il secondo odore, l'emotività risultava molto meno coinvolta. Come dire, il primo odore non si scorda mai, e figuriamoci se possiamo dimenticare l'odore del manicaretto che ci cucinava la nonna o il profumo che usciva dal guardaroba della sua casa. Peraltro, una simile risposta emotiva non sembra verificarsi nel caso di altri stimoli sensoriali, ad esempio dei suoni. A cosa servono questi studi? Beh, in realtà a molto. Basta pensare che da anni le forze di sicurezza di diversi paesi sono alla ricerca di un odore talmente repellente da mettere in fuga, ad esempio, un gruppo di manifestanti. Per fortuna, però, le possibilità che la puzza divenga un'arma letale sono limitate. A meno che non siate un verme, ma non un verme qualsiasi. Diciamo uno di quei vermetti che i biologi chiamano nematodi. Oppure andrebbe bene anche essere un moscerino della frutta. Alcuni ricercatori americani, infatti, hanno dimostrato che in queste specie percepire alcuni odori accorcia la vita. I moscerini della frutta, insensibile all'odore dell'anidride carbonica, vivrebbero più a lungo di quelli che non possono percepirla. Dal punto di vista di un moscerino non si tratta di un odore qualsiasi, perché l'anidride carbonica è associata alla frutta matura, cioè al cibo. I moscerini dal naso fine, insomma, soddisfano la gola, ma muoiono prima, e i ricercatori non hanno ancora capito perché. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo al nostro gioco che questa settimana si occuperà di Formula 1. La domanda si sente spesso porre la seguente domanda, il seguente interrogativo. È vero che un'auto di Formula 1 potrebbe, raggiunta una certa velocità, correre rovesciata, restando cioè attaccata a una specie di pista soffitto? È una leggenda metropolitana questa cosa? Prima possibilità, sì, è assolutamente possibile, ci scriverete sì. No, non raggiungerebbe mai la velocità necessaria, ci scriverete no, e questa è la seconda possibile risposta. La terza, sì, ma come provarlo? Insomma, è un po' una cosa in teoria. Ci scriverete prova, dove? Al 349-238-6666, il solito SMS. Il libro che si vince questa settimana è Perché siamo parenti delle galline e tante altre domande sull'evoluzione, di Federico Taddia e Telmo Pievani, editoriale Scienza. In collaborazione con IBS.it. E di questo libro, Perché siamo parenti delle galline, ne parliamo adesso, anzi ne parla Chiara Albicocco, che vedo già in postazione con il suo ospite, no Chiara? Ecco Federico, ci sta raggiungendo qui in studio un tuo omonimo e anche nostro collega, perché conduce qui a Radio 24 L'Altra Europa, un programma che va in onda il sabato. Ecco, qui con me Federico Taddia. Ciao Federico. Ciao Chiara, ciao Federico. Allora, tu hai selezionato un bel po' di domande fatte a bambini e a ragazzi su due temi importanti che noi qui a Mebius trattiamo spesso: l'evoluzione e l'astronomia. E siccome tu non è che sei scienziato, no? Non ne so nulla. Proprio. Ecco, non ne sei nulla. No, assolutamente ignorante, fatto il bambino anch'io. Ecco, da chi ti sei fatto aiutare? Da due eccellenze. Due eccellenze in questi campi, che sono Telmo Pievani, che anche voi ben sì, conoscete. Sì, lo conosciamo bene, filosofo della scienza, evoluzionista e quant'altro. E amico di Darwin, come sì, molto amico. Come l'ho presentato io di solito ai bambini. E Margherita Hack, che non ha bisogno di presentazioni, ma anche lei si è messa in gioco. Scusa Federico, dobbiamo dire prima i titoli dei libri. Allora, anche questi sono divertenti. Perché siamo parenti delle galline e perché le stelle non ci cadono in testa. Editoriale Scienza, come ti è venuto in mente? Questo progetto nasce proprio così, da Teste Toste, che è il nome della collana, che racchiude un po' quella che è la mia idea. Prendere delle teste toste, che possono essere bambini con idee curiose, e sono teste toste, e anche sapienti, che hanno delle teste toste, in questo caso Pievani e Hacke. Riusciamo a far comunicare questi due mondi? Sì, perché sia Lac che Telmo si sono messi in gioco e hanno accettato di trasformare il loro sapere in qualcosa di comprensibile anche per i più piccoli, e i bambini hanno avuto la possibilità di avere questi due personaggi e poterli spremere. Io mi sono messo in mezzo e ho cercato di tradurre un linguaggio per l'altro, di fare da mediatore, ed è venuto fuori un risultato che è divertente, che è assolutamente serio dal punto di vista scientifico, ma è anche molto moderno e accattivante anche nella grafica. È proprio per tutti, anche il linguaggio. Io ti faccio una sorpresa: ho preso il mio amico Matteo e ho fatto intervistare, o prendendo le tue domande, Telmo Pievani. Ma è vero che siamo parenti delle galline? Sì, certo, noi siamo parenti delle galline come di tutti gli altri esseri viventi. Loro sono uccelli, noi mammiferi, abbiamo avuto un nonno, o se preferisci un antenato comune, vissuto centinaia di milioni di anni fa. Quindi sono nostre cugine, in qualche modo. Telmo, ma è vero che le galline sono parenti dei dinosauri? Sono parenti molto stretti dei dinosauri. Anzi, se proprio dobbiamo dire la verità, noi oggi sappiamo che le galline sono discendenti dirette dei dinosauri. Quindi non è vero che i dinosauri si sono estinti. Sono morti quasi tutti, tranne un piccolo ramoscello, una piccola famiglia, che sono diventati gli uccelli. Ma gli uomini primitivi mangiavano carne di dinosauro? Se intendi il tirannosauro, il brontosauro, il velociraptor, queste bestie meravigliose a sangue tiepido che cacciavano in un modo meraviglioso, quelle si sono estinte 65 milioni di anni fa, e quindi tantissimo tempo prima che comparissero le prime forme umane, cioè all'incirca 6 milioni di anni fa. Quindi è passato tantissimo tempo e i dinosauri non hanno mai convissuto insieme con gli uomini, come in certi cartoni animati che conosciamo bene. Federico, se ti dico che sei una testa di gallina? È un complimento, ho scoperto che può essere un complimento. Telmo, quindi... te l'ha svelato. Me l'ha detto Telmo, insomma, che avete sentito, anche lui è bravissimo proprio nel divulgare. Tra l'altro abbiamo scelto le galline perché solitamente quando si parla di evoluzionismo con i bambini si usano sempre i dinosauri. No, abbiamo detto questa volta lasciamo perdere i dinosauri, anche se ci sono e tanto nel libro, e abbiamo preferito le nostre domestiche galline. Tu devi raccontarmi un aneddoto riguardante Margherita Hack. Allora, Margherita, che ho avuto la fortuna di passarci tante ore insieme in questo periodo, grazie al libro e grazie alle successive presentazioni, e sto imparando cose incredibili. Per esempio, fu rimandata in matematica. Io non ci posso credere. Sì, davvero. E quell'anno lì non le andava. Era il periodo in cui si allenava molto, perché voleva diventare una campionessa di salto in lungo e salto in alto. No. Quindi studiava il minimo indispensabile. Non si applicava, ce l'aveva, ma non si applicava. E non solo, mi ha detto che il professore la prese di mira, quella di matematica, perché lei il lunedì andava a scuola con il giornale, perché voleva leggere la cronaca della Fiorentina, era tifosissima della Fiorentina. E un lunedì la beccò durante la lezione che stava leggendo la Gazzetta o non so cosa, e l'ha mandata fuori dalla porta. Esatto, da quel giorno, insomma, quell'annata se ne andò e fu rimandata in matematica. E senti qua Margherita intervistata dalla mia amica Cecilia. Perché la Terra è un pianeta speciale? Beh, perché ci siamo noi e la Terra è l'unico pianeta del sistema solare che abbia condizioni adatte alla vita. Come si fa a vedere un buco nero se è nero? Infatti si chiama nero proprio perché nemmeno la luce, che ha la massima velocità possibile, può uscirne. Perché Galileo ti è così simpatico? Perché è stato quello che ha iniziato la scienza moderna, e prima di lui c'erano dei filosofi o dei religiosi, e dicevano le cose stanno così e così e non le dimostravano. Invece Galileo ha cercato di dimostrare, di fare esperimenti, di fare osservazioni. Margherita, ti piacciono più le stelle o i gatti? Beh, i gatti naturalmente. I gatti sono tanto simili a me, abbiamo gli stessi sentimenti d'affetto, di gelosia. Le stelle sono dei palloni di gas che stanno lassù, sono oggetti da studiare, però i gatti sono un'altra cosa. I gatti sono come me. È vero che tutte le mattine leggi lo scottato, lo scottoro, l'oroscopo? L'oroscopo. Non faccio nulla senza l'oroscopo. L'oroscopo è proprio una gran turlupinatura, perché l'astrologia è una superstizione, né più né meno come aver paura del gatto nero che ti traversa la strada, del non passare sotto una scala e tutte le tante superstizioni ci sono. Senti Federico, questi due libri, appunto l'abbiamo sentito anche dalle domande, dalle risposte, hanno un linguaggio che spiegano dei concetti piuttosto complicati e complessi, però in maniera semplice, quindi è proprio per tutti. Sì, è proprio per tutti, perché insomma gli argomenti non sono facili, abbiamo mantenuto fede al rigore scientifico, però abbiamo cercato di portare esempi, di usare parole facili e metterci anche un po' di umanità, tra virgolette, dei due autori. Si trovano tantissime curiosità anche sulle loro vite, insomma. Anche tanti aneddoti, anche su Telmo, noi abbiamo raccontato quelli della Hack, però anche su Telmo. Senti, e poi sai cosa mi piace? Che si può passare dall'inizio alla fine, al centro, sono tante domande e non bisogna seguire un ordine. No. In ordine sparso si può andare, questo è molto divertente, te lo dico. Eh sì, abbiamo cercato insomma di andare incontro anche alle esigenze dei ragazzi, no? Che sono abituati anche a linkare, ormai internet diventa anche un'abitudine nel come leggi un libro, e questo libro lo puoi iniziare da qualsiasi pagina, questa cosa ci piaceva. Ripeto i titoli: Perché siamo parenti delle galline e Perché le stelle non ci cadono in testa, editoriale Scienza. Ciao Federico Taddia. Ciao a voi, teste toste. Bisogna camminare di più, fa bene alla salute, ce lo dicono in continuazione da anni, verissimo, in particolare nelle aree metropolitane si cammina poco e molte ricerche che si interessano di migliorare la mobilità urbana studiano come agevolare la mobilità dei pedoni. Ha quindi senso interrogarsi su come gli umani, soprattutto i metropolitani, camminano, e in questo campo ci sono specifiche ricerche. La folla, per esempio, può essere definita un superorganismo, un sistema che si auto-organizza, qualcosa che ha quindi una propria autonomia decisionale, possiamo dire così, naturalmente limitata ai comportamenti relativi alla mobilità. Si pensi a un doppio flusso denso di persone che contemporaneamente escono ed entrano da un luogo o si spostano al suo interno. I centri commerciali sono un buon esempio in questo caso. Ecco, se si analizza l'innesco di questi flussi, si aprono per esempio più ingressi e la gente entra da più parti, si nota come in modo assolutamente spontaneo si creano due direzioni di marcia separate. Tutti quelli che vanno, poniamo, verso nord si collocano in una corsia, e analogamente nella corsia opposta troviamo il flusso che va a sud. Se siamo in presenza di una situazione permanente, si noterà che ogni 30-40 secondi emerge una rottura in questa simmetria, cioè le due colonne tendono a sfrangiarsi, a mescolarsi, ma dopo 4-5 secondi riprende il processo di riposizionamento. Altri studi analizzano in che modo una struttura architettonica può influire sul movimento delle persone. L'uscita da un metrò cittadino, per esempio, una di quelle fermate che consegnano ogni volta centinaia di persone a una stazione alla quale arrivano tanti pendolari. In questi casi si verifica sul campo, è un dato sul campo, che una colonna alta circa un metro posta al centro del vano d'uscita rende più fluido il movimento delle persone, l'opposto insomma di quello che si tenderebbe a pensare. Gli studi sul comportamento del pedone danno risultati spesso sorprendenti. Nel caso più semplice, ovvero quello di due persone che si vengono incontro da opposte direzioni, si nota che in Occidente, l'80% degli individui si sposta alla propria destra per evitare l'impatto. Gli asiatici fanno esattamente l'opposto. Spiegazioni non le ha nessuno. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sì, certo, questo è il suono più tipico della città, il traffico. E questo invece lo era un tempo, le campane, questo è difficile sentirle oggi. Adesso siamo in un mercato. Non saprei che dire, c'erano e ci sono i mercati, ma non tutti i mercati sono uguali. Qualcheduno se ne sta andando, sta scomparendo. In una città si potrebbe anche amplificare il suono di un'acqua che gorgoglia. Qui siamo su un autobus che si sta fermando in un punto qualunque della città. E cosa c'entra con le biciclette? In una città poi ci sono molti pali e questo è il suono che sentiamo nella testa quando andiamo a sbatterli contro. Allora una città c'è e ci può stare di tutto? Beh sì, è quasi così, possiamo dirlo. Ora viaggeremo nel tempo per qualche minuto fra il passato e il futuro della città, ragionando su come questo habitat metropolitano potrebbe essere ripensato con piccoli e grandi interventi. È un viaggio che per Möbius hanno organizzato i giovani colleghi del Master in giornalismo dell'Università IUL di Milano. Man mano ve li presenterò. E incominciamo con Salvatore Todaro, Marco Cosenzi e Emilio Mariotti che ci raccontano una vicenda strana che ci porta a Londra. Passeggiando per le strade della città si possono fare strani incontri. Chi di voi, distratto dai tasti del cellulare, non è mai andato a sbattere contro un palo? Le conseguenze possono essere bernoccoli e ferite da medicare al pronto soccorso. Per risolvere il problema, a Londra, nel quartiere di Brick Lane, hanno pensato di vestire i pali con un'imbottitura in gomma. Così il diventerà un soffice. Ma nella capitale inglese di suoni curiosi ce ne sono tanti. Attraversando il Millennium Bridge non vi sarà difficile ascoltare il verso dei gabbiani. Tuttavia non lasciatevi ingannare, il suono non proviene da uno stormo affamato, ma da altoparlanti disposti lungo il ponte. L'intento è quello di ricreare vecchie atmosfere, quando i volatili erano gli unici padroni delle rive del Tamigi. Marco Cosenza, ciao. Ciao Federico. Allora, insomma, gabbiani un po' falsi, un po' fasulli. Eh sì, però in quella zona di Londra c'era il porto una volta con tanti gabbiani e adesso non c'è più. Però è anche importante forse che una città conservi la memoria di ciò che dei è stata. Dei suoi suoni anche, certo. Sì. E abbiamo recuperato un suono possente di campane e a proposito di suoni entriamo in un altro pezzo di questo nostro viaggio nella città. Lo faccio con Sara Mariani. Ciao Sara. Ciao, ciao Federico. Allora, i suoni nella città possono far parte della sua memoria. Sì, però alcuni suoni rischiano anche di scomparire, perciò vengono spesso catalogati o archiviati per poi essere reinseriti nell'ambiente urbano, come abbiamo sentito in questo caso. C'è gente che fa questo lavoro, sì, di ricerca, c'è gente che di fa questo lavoro. Infatti io ho chiesto ad Andrea Minidio, che è appunto un ricercatore nel campo del soundscape, ovvero il paesaggio sonoro, di spiegarci di che cosa si tratta. I suoni del paesaggio costituiscono parte anch'essa del patrimonio culturale di una comunità, patrimonio culturale in questo caso di natura immateriale, ma anch'esso valido e necessariamente deve essere ricordato, possibilmente protetto, nel caso di paesaggi scomparsi forse semplicemente archiviato e catalogato, né più né meno di come si fa abitualmente per il patrimonio artistico e culturale di altra natura. Parallelamente anche il paesaggio sonoro è fatto di un palinsesto, di tanti eventi, più o meno importanti, più o meno belli, più o meno artisticamente pregiati, ma comunque che costituiscono l'orizzonte comune di riferimento di una comunità, l'orizzonte acustico di una comunità. E qui siamo al mercato di Palermo, un mercato molto particolare, tanti altri mercati resteranno, ma forse alcuni molto particolari, molto originali, e basta pensare al fatto che probabilmente magari il dialetto verrà parlato molto meno, questi suoni tipici scompariranno. Sara? Sì, certo, un mercato come questo potrebbe effettivamente scomparire, però oltre a catalogare i vecchi suoni, perché anche non inventarsene di nuovi, suoni che possano migliorare la qualità della vita in una città. Nuove sonorità. Sì, sempre a proposito di questo, ho sentito ancora, sempre Andrea Minidio, a proposito appunto del Soundscape come progetto di miglioramento. Soundscape in italiano possiamo tradurlo con paesaggio sonoro. Come già dicevo prima, il paesaggio è una creazione collettiva, evidentemente, fatta di tanti eventi sovrapponentesi che è difficile da governare, ma così come un architetto compie operazioni di creazioni, di angoli, di giardini, di interventi urbani volti a migliorare il contesto di vita della popolazione, altrettanto è possibile ed sarebbe opportuno sempre più avere un'attenzione verso la dimensione acustica del paesaggio. Qualcuno lo fa, un paesaggio sonoro che può essere appunto legato ad un evento sociale o può essere appunto legato alla costruzione di un monumento. Angoli, insomma, della città o del paesaggio rurale in cui si possa godere una particolare esperienza, così come abbiamo i belvedere sulle colline, sulle terrazze delle prealpi, degli Appennini. Altrettanto potremmo immaginare, potremmo progettare dei belludire. Un angolo di belludire non è detto che corrisponda necessariamente con l'idea della quiete, lo può essere, talvolta lo è, ma spesso un evento bello può essere anche un evento molto acusticamente presente e forse anche costituito da un numero di decibel molto elevato, come dimostrano appunto i grandi eventi rock che appassionano migliaia e migliaia di amanti della musica. Sarebbe importante immaginare il paesaggio sonoro come un grande puzzle, un grande palinsesto di angoli che ha ognuno caratterizzato dalla propria specificità. Qui io sento dell'acqua che gorgoglia, sì. Sara. Sì, allora questa è una speciale scultura che si chiama Wave Organ e si trova sull'Embarcadero di San Francisco e si tratta proprio di un incontro fra questi elementi. L'acqua del mare e il vento producono questo suono incontrandosi appunto in questi cunicoli di pietra. E questo suono viene portato fuori perché in realtà se se ne sta lì sotto il mare non lo sentiresti, viene amplificato in quest'area vicino al ponte. Certo, sì, si tratta proprio di un'area vicino all'Embarcadero di San Francisco in cui si trovano questi tubi di pietra e proprio che amplificano il suono del mare, sì. E adesso finiamo sotto il metrò. Siamo sotto il Duomo di Milano nella stazione metropolitana ed è in corso Live Me, la manifestazione che ogni sabato dà modo a musicisti emergenti di cantare ed esibirsi in mezzo alla gente che va e che viene. Andiamo a sentire. Una città ricca di musica è senza dubbio una città migliore. È a questo che puntano gli artisti di strada che animano le più importanti metropoli del mondo. Sotto i portici o in metropolitana fare arti con strumenti musicali o corde vocali a contatto diretto con le persone. Sara, immaginavi che nella tua vita avresti fatto l'artista di strada? Mi sarei immaginata di cantare in metropolitana magari, però non su un palco in metropolitana. A Milano Live Me è da alcune settimane il tentativo di istituzionalizzare questa pratica e cercare di far decollare ragazzi che vogliono fare della musica la propria vita. Il conduttore talent scout Red Ronnie è padre dell'iniziativa. Ma materialmente questi ragazzi dopo Live Me hanno l'occasione di poter fare un passo in avanti? Live Me prevede un passo in avanti per loro? Live Me non è soltanto l'esibizione qui in metropolitana. Live Me significa che noi stiamo riprendendo, come vedi qui, con 3 telecamere. Gli regaliamo il video. I video vanno nei maxi schermi, negli schermi della metropolitana, vanno sul canale di YouTube. Permettiamo loro di mettere il loro brano su iTunes nello spazio Live Me, quindi di venderlo, di ricevere dei soldi se vendono, di essere conosciuti perché vanno nello spazio Live Me, perché un gruppo emergente su iTunes in mezzo a milioni di brani, tranne gli amici o i genitori, chissà che sono lì. Invece questo caso sono nello spazio Live Me. Live Me adesso è nella metropolitana, ma poi andrà anche su. Magari, che ne so, un giorno ci sarà un Live in Piazza Duomo. Ma cosa rappresenta la musica per un giovane che sceglie di rischiare e di dedicarvi il proprio tempo? Lascerei tutto per la musica, però col mio gruppo. Quello sì, ma quello lo farei anche adesso. Come mai sei qui sotto il palco di Live Me? Sono passato prima per andare in Duomo, l'ho visto e mi sono fermato. Un artista ha sempre un valore aggiunto e un qualcosa da mostrare agli altri. La scienza è la storia. In alcune città europee i giovani musicisti suonano il jingle di uno sponsor per guadagnare quanto basta a continuare a produrre la propria musica. Abbiamo chiesto ad alcuni ragazzi di Live Me se anche loro sarebbero disposti a farlo. Allora, da un lato potrebbe essere controproducente, da un altro potrebbe essere produttivo. Bisogna sempre vedere e capire quali sono i reali cavilli della situazione. Chiaramente, se sponsorizzati nella maniera ideale e se fosse il jingle comunque, tra virgolette, un modo per farsi pubblicità, perché no? A oggi è molto importante fare pubblicità in tutti i modi, la comunicazione è importante, quindi senz'altro. Beh, lasciamo il metro, insieme a Salvatore Todaro c'era anche Tommaso Taffi in questo servizio. Allora qui il concetto è, per avere musica in città, perché non sponsorizzare questi gruppi, queste band che naturalmente sono anche al loro inizio e quindi da una sponsorizzazione possono trarre parecchi vantaggi. Vi ricordate cosa dicevo all'inizio, introducendo questo racconto sulle città? Sentivamo un autobus che raggiungeva una fermata e mi domandavo cosa c'entrano gli autobus con le biciclette. Sulle strade di una città tutte e due si incontrano, questo è vero, e quindi una relazione fra i due in quanto mezzi stradali esiste. Ma non mi riferivo a questo, mi riferivo al fatto che sarebbe molto bello se un autobus potesse caricare le biciclette. Infatti, ne parleremo fra poco, c'è il problema di raggiungere dalla propria abitazione il mezzo più vicino, autobus, tram, metro. Però se questo problema c'è quando si parte da casa, poi può esserci anche quando si arriva, perché il luogo di lavoro o di studio dovrebbe essere sempre vicino a un mezzo di trasporto pubblico. Ecco che portarsi appresso una bicicletta sarebbe utile. In attesa di soluzioni più strutturate, una buona idea la si può vedere in alcune città americane, San Diego per esempio. Qui gli autobus hanno una rastrelliera davanti, sulla quale ci possono stare tre biciclette. Non sono tante, ma meglio che niente. Questa frase, non sono tante ma comunque qualcosa sono, guardate, è molto importante e dovrebbe essere estesa a tutto ciò che riguarda la sostenibilità ambientale, il risparmio energetico, i progetti di strutture urbane e non urbane. È così, la strategia fondamentale è quella che mette in campo in modo molto duttile e articolato tante soluzioni diverse che vanno nella stessa direzione. Ci sono delle importanti procedure che bisogna introdurre invece in modo massiccio e generale. Per esempio, sono arrivate le lampadine che consumano un terzo. Bene, queste devono diventare obbligatorie. Ma in molte altre situazioni quello che conta è anche individuare un piccolo intervento locale. Grandi vantaggi possono derivare da migliaia di piccole cose fatte in piccoli posti. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Voci di bambini che sono certamente gli abitanti più numerosi delle favelas. Elisa Zanetti, ciao. Buonasera. Allora, tu sei qui per parlarci di, beh, un po' un paradosso, direi, no? Siamo sì. Dove? Siamo nelle favelas colombiane e venezuelane, dove è incredibile, ma appunto gli abitanti stessi di queste baraccopoli hanno scelto di migliorare le zone da loro abitate, non distruggendo e ricostruendo appunto delle case nuove, ma riqualificando l'area attraverso la costruzione di spazi pubblici, però appunto mantenendo le loro abitazioni che comunque sono sentite come certo. Casa. Sì, il paradosso indubbiamente è forte, però ricordiamoci che sono aree dove abitano centinaia di migliaia di persone, allora si è in grado di fare un grande, grandissimo piano di cambiamento, o se no è anche giusto interrogarsi su come si può migliorare. E per esempio che cosa è stato fatto? Beh, ad esempio in Colombia, nella periferia di Medellin, è stata creata una funivia che ha collegato appunto questa periferia con il centro della città. La periferia si era sviluppata selvaggiamente sulle colline circostanti ed era quindi totalmente isolata. Certo. Cioè non poteva entrare nemmeno un'ambulanza qualora fosse stato necessario. Invece attraverso questa funivia si ricrea il contatto con il centro della città e quindi il resto della della comunità, e poi sono state realizzate anche scuole, biblioteche, insomma degli spazi pubblici che hanno rivitalizzato la zona. Invece in Venezuela è stato elaborato da tre donne, tre architette, un sistema di scale colorate che collegano la periferia, la baraccopoli. La favela stessa, esatto, al suo interno, per esatto, camminarci in modo, dentro, esatto, che ci si possa muovere agilmente. Elisa, ciao. Arrivederci. Lasciamo questa bella musica sudamericana, ma resteremo sempre con un po' di musica con Carolina Saporiti e Tommaso Taffi, che però ci portano molto più vicino a Bergamo. Sono fortunati i bambini dell'Istituto Comprensivo Camozzi di Bergamo. Da 4 anni, infatti, grazie al lavoro di genitori e maestre particolarmente intraprendenti, per 2 giorni alla settimana hanno la possibilità di andare a scuola insieme, a piedi, cantando una canzone che è ormai un vero e proprio tormentone. Era solo lei che urlava. Quella del piedibus è una realtà consolidata da diversi anni in tutta Italia, ma alla scuola Camozzi hanno voluto aggiungerci qualcosa di più. Accompagnati da genitori menestrelli, i bimbi vanno a scuola cantando a squarciagola il motivo scritto e interpretato dalla maestra Antonia Cuomo. Facciamo a chi sale prima, ci sto già io, ci stai pure tu, e vive il nostro piedibù. La canzone nata nel 2006 è nata dalla quotidianità, cioè dall'abitudine di alcuni genitori e di alcuni bambini di andare a scuola a piedi e di tornare a casa a piedi. Con alcuni amici, genitori e in particolar modo musicisti del nostro quartiere, si è pensato di rendere più fruibile e più accattivante quest'idea scrivendo questa canzone, che è diventata la colonna sonora del nostro piedibus. A 4 anni di distanza dal suo primo viaggio, il piedibù non accenna a fermarsi. Anzi, sono sempre più numerosi i bimbi che chiedono di poterci salire tutti i giorni e non soltanto 2 volte alla settimana. E ne guadagnano in salute sia loro che gli abitanti di tutta Bergamo. Salire presto ti conviene. Ve l'ho detto, no, all'inizio, che avremmo fatto un viaggio seguendo le tante possibili proposte per cambiare le nostre città con Manuela Messina. Partiamo da Napoli e arriviamo in Austria. Chiudete gli occhi e immaginate di essere sulle bianche spiagge di Posillipo, circondati dalle maestose ville Liberty del quartiere residenziale di Napoli. Ora riapriteli. La realtà è ben diversa. Siete a Linz e quello che si trova di fronte a voi non è il golfo di Napoli, ma il flusso placido e sinuoso delle acque del Danubio. I suoni però, quelli sono reali. A portarli nella città austriaca è stato l'artista Roberto Paci Dalò, che ha voluto catturare i suoni tipici della città partenopea per regalare ai passanti un po' di calore mediterraneo. Voci del mercato, rumori di motociclette, clacson di automobili imbottigliate nelle vie del centro e soprattutto canzoni. L'installazione nasce dall'idea che vivere una città non significa solo addentrarsi nelle sue strade e sentirne i profumi, ma anche godere dei suoni che la caratterizzano. Saracinesche che si aprono sui quartieri spagnoli, stralci di voci dei frequentatori dei bar del centro e treni che partono dalla stazione sotterranea di Piazza Garibaldi. Grazie a Roberto Paci Dalò, gli abitanti di Linz possono vivere finalmente un'esperienza d'ascolto che vale quasi come un viaggio. Stiamo andando verso la conclusione di questo nostro viaggio e vi parlo di micromobilità. Lo faccio con Marco Subert. Ciao Marco, buonasera. Ciao Federico, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, anzi, noi ne abbiamo parlato con il professor Fabio Casiroli, che è docente di pianificazione dei trasporti al Politecnico di Milano ed è leader di un'azienda che è proprio specializzata nella pianificazione dei trasporti. Sì. A lui ho chiesto di darmi una definizione di micromobilità. La mobilità graduale si compone di due elementi sostanziali, che sono la macromobilità, che si fonda sostanzialmente su sistemi di trasporto forti come le metropolitane, le ferrovie regionali, i tram, i filobus, e la micromobilità, che copre primo e ultimo miglio e che si sostanzia fondamentalmente attraverso le ecostazioni, luoghi in cui passeggeri potranno trovare delle biciclette o dei veicoli elettrici a noleggio, quindi dei mezzi pubblici individuali che siano in grado di coprire quello spazio difficilmente percorribile a piedi. Che cosa rende perdente il modello di trasporto pubblico esistente rispetto all'utilizzo dei mezzi privati? Il problema del trasporto pubblico oggi è quello di coprire soprattutto il primo e l'ultimo miglio. Tutti noi come cittadini siamo interessati a disporre di spostamenti che ci portino da porta a porta, e in teoria questo è consentito usando soltanto mezzi privati. Raramente i mezzi pubblici ci offrono questa possibilità. Quindi occorre proporre sostanzialmente un cambio radicale di criteri di gestione della mobilità, e io propongo la mobilità graduale. Quindi l'idea è quella di realizzare una rete di distributori di mezzi individuali per rendere più attraente l'utilizzo del trasporto pubblico. Ma quanto costerebbe realizzare una rete di ecostazioni? Avendo fatto una simulazione preliminare su due grandi città come Roma e Milano, sarebbero sufficienti 1000 ecostazioni di quelle che ho appena citato per garantire una mobilità completa all'interno di queste due città. 1000 ecostazioni sostanzialmente costerebbero come 2 chilometri di metropolitana pesante, e sarebbero in grado di eliminare circa 300.000 spostamenti con auto privata ogni giorno. Abbiamo quindi imparato due definizioni: micromobilità, è quella da cui eravamo partiti, lui ha aggiunto mobilità graduale, no? Che è quella che connette. Esatto, che combina la micromobilità con la macromobilità. Dal portone alla prima fermata e quindi alla mobilità più grande. Allora, quindi diminuzione del traffico, questo sì, Marco. Diminuzione del traffico, ma non solo. Infatti questo modello riesce anche a modificare in senso virtuoso il tessuto urbano. Grazie Marco, ciao. Grazie. Welcome guys to New York City. Ho sentito New York City, Francesca Martelli, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Un New York City con... so che sono ambulanti, eh? Sì, infatti. Il fatto è che a New York ce ne sono più di 10.000. Venditori ambulanti per strada, 10.000. Eh sì, infatti a volte ci sono dei problemi di convivenza tra i negozianti e il quartiere. E allora c'è stata un'iniziativa piuttosto singolare, di cui abbiamo parlato con Avery Laccolla di Design for All, che ci ha raccontato di questo progetto, una sorta di corso per educare gli ambulanti al rispetto delle regole. Sentiamo. Lo strumento di risposta fatto dal designer è un volantino in cartoncino semirigido abbastanza grande, dove si parla in primis per immagini, dove vengono rappresentate le principali tipologie di vendita per la strada, in modo tale che ognuno di questi venditori ambulanti riconosca la propria attività e la propria esperienza in uno di questi disegni. Poi abbiamo anche un discorso di icone, quindi di degli elementi funzionali simbolizzati in elementi grafici molto astratti, e poi abbiamo un terzo livello di comunicazione che è quello della parola scritta. Troviamo 5 lingue: inglese, bengalese, cinese, arabo e spagnolo, che sono state riconosciute come le 5 lingue più comuni in quel quartiere. Quindi il designer va sia a parlare con i rappresentanti che con i decisori che con i fruitori finali stessi. Quindi noi abbiamo un design di sistema che risponde a una necessità, che è alleviare, superare, eliminare un disagio di convivenza. E la risposta diventa una creazione. C'è un architetto a New York che ha seguito questo progetto, no? Sì, il progetto in realtà è di un team di designer guidati, un team di designer. Sì, da Candy Chang, che è una designer emergente di origini asiatiche. Allora, Design for All, vi dicevamo prima, è una modalità di progettazione che cerca di tener conto di tutti i fattori dei tantissimi fattori e quindi anche delle tantissime soluzioni che si possono dare a dei problemi che invece tipicamente con le tecniche usuali si affrontano in modo un po' parziale. Un po' parziale. Il design for all interviene anche in queste cose in cui quello che si deve progettare è una convivenza, no? Non solo degli oggetti di arredo. Grazie Francesco. Arrivederci. E adesso il viaggio è veramente finito, abbiamo attraversato tante proposte e tante città diverse. La sfida, l'idea, il progetto sarebbe quello di riuscire a concentrare tante di queste cose buone in ognuna delle tante possibili città. Siamo alla soluzione del quiz che poneva il seguente interrogativo: un'auto di Formula 1 ha raggiunto una certa velocità, è vero che potrebbe praticamente correre rovesciata su una specie di pista soffitto? La risposta giusta è quella un po' strana che dice sì. Ma come provarlo? In effetti gli alettoni posteriori e anteriori di una macchina da Formula 1 sono progettati in modo esattamente inverso alle ali degli aerei. Le ali degli aerei portano su, gli alettoni spingono in giù e quindi, fatti i conti, a circa 190 km orari si avrebbe una pressione sufficiente per far stare l'auto sul soffitto. Ma come portarla in quel punto? Ci vorrebbe una pista cilindrica in modo che l'auto potesse progressivamente portarsi nella parte superiore, tuttavia nella posizione intermedia con gli alettoni perpendicolari al suolo ci potrebbe essere una diminuzione di pressione e l'auto avrebbe un'aderenza molto inferiore e cadrebbe giù. Insomma, in teoria sì, ma in pratica chi può provare questa cosa? E con questo interrogativo aperto, mi raccomando, con la vostra 500 anni 70 non provateci, Möbius si conclude e l'appuntamento è per la prossima settimana. Buona serata a tutti e a tutte. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.